È lunedì 31 ottobre, intanto i titoli di apertura dei quotidiani, il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì si concentra sulla giustizia, un piano taglia tempi, questo è il titolo di apertura, al via nei tribunali il programma annuale per smaltire l'arretrato. L'apertura del Corriere della Sera è finanziaria, fondo monetario in campo, così difenderemo i paesi europei dal contagio. Anche per la stampa, l'Europa chiede aiuto al G20, tutti collaborino per la crescita. Mentre per Repubblica, Sacconi, rischio nuovo terrorismo. E così per il Messaggero, Sacconi, rischio terrorismo. L'Unità invece su questa preoccupazione del ministro del welfare titola governo incendiario, dopo l'attacco all'articolo 18 Sacconi evoca il terrorismo. Mentre il giornale mette il PDL in testa ai sondaggi, la resurrezione di Silvio. Ma intanto da cosa vogliamo partire? Beh, il primo titolo, la prima storia che voglio raccontare dal Corriere della Sera, le due Italie della sanità, bypass più rischioso al sud. È un'interessante graduatoria che è stata stilata, trovate tutto a pagina 19 a firma Margherita De Bac. Dove si cura meglio l'infarto? Dov'è un buon centro per l'artroscopia del ginocchio? Qual è il numero uno nella chirurgia del tumore polmonare? Beh, domande che tutti gli italiani vorrebbero delle risposte, no? Quando si tratta di salute, rivolgersi alle strutture migliori. Ebbene, la risposta è nella classifica online degli ospedali italiani, pubblicata su internet, ma con lettura riservata agli addetti ai lavori. Uno studio immane del Ministero della Salute realizzato da Agenas, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, diretta da Fulvio Moirano. Sono migliaia di dati, una fotografia dell'attività di 1.475 strutture tra pubbliche, private e convenzionate. Numeri che mostrano la solita Italia a due marce, un centro nord in generale più efficiente del centro sud. In alcuni centri di Piemonte o Lombardia, per esempio, si può essere operati di bypass con un rischio di mortalità sovrapponibile allo zero. In certi ospedali siciliani il rischio sfiora il 10%. Allora capite bene che, insomma, sarebbe bello sapere questa graduatoria. Invece si sta proprio discutendo di questi risultati, se sia il caso di renderli pubblici oppure no. Per il momento sono accessibili, sono agli addetti ai lavori che hanno un codice personale per entrare nella pagina su internet. Però il Corriere evidentemente ha potuto vedere questi dati, perché alcune delle pagine più significative riguardano la mortalità a 30 giorni dall'intervento per bypass. La media italiana del 2,2%, nel 2009 circa 30 ospedali non hanno superato la soglia dei 50 bypass all'anno, mentre il volume considerato accettabile per la sicurezza del malato è di 200. Insomma, comunque una classifica riservata delle due Italie della sanità, con la classifica di tutte le strutture 1.475 controllate, monitorate da questa agenzia del Ministero, ma si sta discutendo se rendere pubblica, accessibile a tutti, questa classifica oppure no. E poi voglio segnalare un'iniziativa curiosa a Napoli che farà certamente sorridere qualcuno. Chi di casta perisce, o meglio ferisce di casta, perisce. C'è una serie di locali a Napoli, il più celebre è Gino Sorbillo, che fa pizza. E ha fatto questa iniziativa. Qui gli onorevoli, i deputati e i senatori pagano la pizza 100 euro. Una margherita 100 euro. Questo per il contrappasso, no, delle spese ridicole dei prezzi al Senato e alla Camera dei ristoranti. Ed eccolo qui. E l'onorevole paga la pizza 100 euro. La rivolta anticasta, la prima vittima è stato l'onorevole Sergio D'Antoni del Partito Democratico, che è andato lì, ha preso una margherita e si è visto pagare 100, e si è visto chiedere 100 euro per la pizza. Il caffè 90 euro, un panino 350 euro. Con tanto di annuncio, qui gli onorevoli senatori pagheranno questo. Anche sulla stampa, la pizza a 100 euro per i politici, con tanto di commento invece sul Corriere di Sergio Rizzo. È un segno dei tempi, scrive Rizzo a pagina 36. Mai la popolarità della nostra classe politica era precipitata tanto in basso da diventare testimonial al contrario per bar, pizzerie e ristoranti. Ha ragione però il titolare della pizzeria. Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. E allora, a Sergio D'Antoni abbiamo fatto pagare 100 euro. Ma se arriva, che ne so, il ministro La Russa, reo di aver acquistato 19 Maserati blindate nuove di Zec, il titolare del locale ha detto, a lui chiederemo 1000 euro per una pizza. Margherita, 1000 euro, spero almeno con doppia mozzarella. Eccoci nella lettura dei giornali. Beh, la questione politica, la situazione politica è certamente animata ieri dalle parole del ministro del welfare Sacconi, che è andato a fare un'intervista a Sky. E alla domanda, lei ha paura? Ha detto, sì, ho paura, sì. Temo che torni il terrorismo, ma non per me, perché io sono protetto. Ho paura invece per le persone che potrebbero non essere protette e proprio per questo diventare bersaglio della violenza politica che nel nostro paese non si è del tutto estinta. Poi ha parlato della vicenda Marco Biagi. Oggi, ha detto Sacconi, dalla violenza verbale alla violenza spontanea, alla violenza organizzata, vedo una sequenza che mi auguro non arrivi ancora una volta all'omicidio, come è accaduto l'ultima volta proprio con il povero Marco, nel contesto di una discussione per molti aspetti simile a quella attuale. Insomma, la questione dei cosiddetti licenziamenti facili, o comunque della riforma del mercato del lavoro, di cui si è discusso dopo la lettera, dopo gli impegni presi anche dal governo italiano in sede Unione Europea, ha riacceso il dibattito su questo. E certo, le parole oggi di Sacconi portano molti quotidiani a titolare su questo, alcuni ad aprire come Repubblica, abbiamo visto, ma come Il Messaggero, anche l'Unità, ovviamente anche con le reazioni. Per esempio, il leader della CGIL, Susanna Camusso, intervistata da Repubblica, da Roberto Mania, pagina 13, o ha le prove o il ministro stia zitto. Queste parole servono a spostare l'attenzione su altro, mentre sono il lavoro, i licenziamenti, il tema al centro della discussione. Vorrei dire che se un ministro della Repubblica fa affermazioni di quel tipo dovrebbe avere qualche elemento che le sostenga, e se ce l'ha non dovrebbe costruire un clima di preoccupazione. Le sue sono affermazioni che piombano dal nulla e fanno sorgere molti interrogativi. Per esempio, che si voglia spostare l'attenzione, come se una discussione inevitabilmente vivace su una questione molto sensibile socialmente e politicamente come quella dei licenziamenti possa di per sé evocare il terrorismo. E poi, dice la Camusso, l'omicidio del professor Biagi avvenne al termine di una lunga stagione di terrorismo che riuscì a entrare in alcune fabbriche, ma trovò proprio nel sindacato un baluardo fondamentale. Tutto questo, per fortuna, oggi non c'è più. Non vedo nulla di paragonabile alla violenza politica di quegli anni. Diciamo che sulla stessa lunghezza d'onda di dura critica è anche Sergio Cofferati, che oggi fa l'europarlamentare, ma allora, all'epoca anche dell'omicidio Biagi, era il leader della CGIL, e intervistato dal Corriere della Sera a pagina 3 da Marco Imarisio dice: l'ha rifatto di nuovo, ogni tanto gli prende così, dobbiamo proprio parlarne. Così Sergio Cofferati, che all'epoca, tra l'altro, ricorda il Corriere, fu anche nel 2002 bollato come una sorta di mandante morale, la CGIL, dell'omicidio Marco Biagi. E dice allora Cofferati: certe cose non si dimenticano. Per avere sostenuto che la critica alle politiche del governo produce violenza, tesi che esercitò contro la CGIL, Sacconi è stato condannato a scrivere un articolo di rettifica per smentire se stesso, esperienza penosissima dalla quale non sembra avere imparato nulla. E dice Cofferati, molto duro: sono propenso a credere che quella di Sacconi sia pura coazione a ripetere un errore. A mio avviso nel 2002 ci fu solo una grande manifestazione pacifica contro le politiche del governo e una banda di assassini che uccise il professor Marco Biagi dopo aver già ammazzato Massimo D'Antona, quando all'articolo 18 nessuno ci pensava ancora. Insomma, molto duro. Invece chi sostiene questi timori, in due interviste lo fa a pagina 3 del Corriere della Sera, sempre anche sul giornale, a pagina 6, è Michele Tiraboschi, giuslavorista. Il professor Tiraboschi, ex allievo e collaboratore di Marco Biagi, non nasconde un certo disagio nel rivivere toni e tensioni di un passato doloroso, lo fa con Francesco Alberti sul Corriere della Sera, e dice: «Penso che oggi, come allora, si sia aperta una riflessione per cercare di rendere più moderno il nostro sistema giuridico del lavoro, creare più opportunità per tutti, occupazione regolare, spingere le aziende ad assumere. Oggi, come allora, è in atto un tentativo di mistificazione. Ricordo che Marco Biagi era molto sconcertato dal fatto che da parte di alcuni la sua proposta venisse presentata e descritta come l'abolizione delle giustificazioni sui licenziamenti. Una cosa assolutamente falsa. Biagi si era in realtà limitato a proporre, tra l'altro molto timidamente, di non applicare l'articolo 18 per le assunzioni che riguardano i giovani o i cosiddetti contratti sommersi». Ma anche al Giornale dice, intervistato da Gabriele Villa: «Condivido pienamente le preoccupazioni del ministro Sacconi e la storia a suggerirci di non abbassare la guardia. La strada che porta alla modernizzazione del mercato del lavoro è costellata nel nostro paese di intimidazioni, atti di violenza e anche morti. Questa anomalia non va sottovalutata in momenti come questo». Insomma, su questo tema, il timore di rigurgiti terroristici, il dibattito politico certamente si è rianimato. Per esempio, Vittorio Feltri sul Giornale, in editoriale di prima pagina, scrive: «C'è poco da sfottere. Il ministro Maurizio Sacconi si paventa un ritorno del terrorismo. Il suo timore è fondato sul ricordo. Ogni volta che la politica ha tentato di aggiornare la legislazione sul lavoro, il partito armato ha reagito. È successo una decina d'anni or sono. Marco Biagi, ideatore e progettista della cosiddetta flessibilità poco gradita allora quanto oggi, fu assassinato sotto casa a Bologna. Venne abbattuto l'uomo simbolo della modernizzazione, perché fosse chiaro che nulla doveva cambiare nel rapporto tra impresa e dipendenti». Poi Feltri dice: «Adesso una riforma del lavoro si impone, la chiedono l'Europa, l'economia stagnante è bisognosa di una scossa e chi non riesce a trovare un posto per mancanza di mobilità». Insomma, un tema molto caldo, ovviamente, anche per le evocazioni che vengono fatte. E tra l'altro oggi parlerà anche di questo anche Oscar Giannino alle 9, che sarà prima con noi, però Oscar Giannino, vi ricordo, alle 8:20, quando parleremo di noi, il futuro, la terra, visto che siamo 7 miliardi. Questo è un tema che troviamo tra l'altro sui giornali, più avanti lo vedremo. Ovviamente inizia anche una settimana con il fiato sospeso, è il caso di dirlo. L'apertura dei mercati è la prima settimana dopo gli impegni formali dell'Italia in sede Unione Europea, e quindi tutti i giornali titolano il fiato sospeso. Questa lettera, tra l'altro, chi l'ha scritta questa lettera? Beh, il ministro Renato Brunetta sulla 7 ha detto: «Sono stato io il redattore del documento, raccogliendo le sollecitazioni giunte non soltanto dai colleghi di governo ma anche dai partiti di maggioranza». Insomma, tra l'altro, il Corriere della Sera fa sapere a pagina 6: «La cabina di regia sarà a Palazzo Chigi, lo ha annunciato Berlusconi nel colloquio con il Corriere. L'ha confermato il segretario del PDL Alfano. Sarà a Palazzo Chigi la cabina di regia che dovrà stendere materialmente i provvedimenti necessari a dar seguito agli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Europa». Insomma, qualcuno fa notare che può essere una sorta di commissariamento del ministro dell'economia Giulio Tremonti, anche se La Stampa, con Ugo Magri, fa sapere che in realtà i veri commissariati rischiamo di essere noi come paese Italia. Bruxelles non basta, Berlusconi adesso spera nel vertice. Bruxelles non basta, cioè la lettera a Bruxelles della scorsa settimana non basta, perché già si guarda a quello che sarà il G20, il prossimo summit mondiale, in programma giovedì e venerdì prossimi a Cannes. Si guarda quello, si guarda perché, dice Ugo Magri, lì qualcosa potrà succedere. Non è da escludere a prioristicamente che l'Italia possa giocare un ruolo propositivo. Berlusconi sbarcherà a Cannes dopo un ufficio di presidenza del suo partito e anche il Consiglio dei Ministri, quasi certamente per far vedere che si procede con il varo delle misure promesse al mondo, cominciando per esempio dalle dismissioni. E in realtà poi Ugo Magri, nel finire dell'articolo, il suo retroscena politico a pagina 3, dice: «Con il passare dei giorni emerge una verità diversa, che è questa. A scrivere quella lettera all'Europa di fatto è stata l'Europa medesima. Chi ha seguito passo passo la vicenda rivela che Berlusconi si è limitato ad assorbire e integrare i suggerimenti fatti giungere da Bruxelles, dove ne hanno preso atto, ma con una postilla destinata a stravolgere i termini del nostro dibattito politico. Vale a dire questa: le autorità italiane sono invitate a fornire tempestivamente tutte le informazioni alla Commissione ai fini di una valutazione dettagliata delle misure. In pratica, scrive Ugo Magri, ci hanno commissariato. Il garante europeo vorrebbe essere Berlusconi. Peccato, si ride nelle varie cancellerie, che nel discorso dell'altro ieri al commercio estero Silvio abbia iniziato con una barzelletta su Putin a sfondo sessuale e abbia concluso con un attacco all'euro. Difficilmente il commissario d'Italia potrà essere lui. E intanto invece la politica interna su che cosa si interroga? Su Renzi, il rottamatore, che ha concluso la convention a Leopolda a Firenze e che ha detto basta i burocrati, basta i reduci del Partito Democratico. La risposta del Partito Democratico con Bersani, beh, insomma, cosa si può dire di Renzi, secondo me, per farlo arrabbiare maggiormente? Quello che ha detto Bersani, le sue idee sono vecchie. Ma com'è? Le sue idee sono vecchie? Renzi che si propone come il nuovo, colui che vuole rottamare, colui che basta i vecchi, basta i reduci, basta i burocrati, Bersani ha detto le sue idee sono vecchie di fatto. Attenzione a queste idee spacciate per nuove, ma che sono idee riciclate degli anni 80. Insomma, il dibattito all'interno del Partito Democratico è tutto qui, con anche Giuliano Ferrara che fa l'editoriale del lunedì sul Foglio e definisce Renzi un politico moderno, acerbo, esposto a mille accuse, possibili ritorsioni polemiche, in sospetto di furbizia in quanto fiorentino, ma in realtà dichiara e onora la propria ambizione, motiva e trascina i suoi seguaci, solleva tremende invidie che lo ingrassano, sfruculia Berlusconi e la Lega in TV, ma non si tira indietro se si debba andare a discutere ad Arcore, è naturalmente curioso dell'altro senza perdere in gioia identitaria. Insomma, una promozione da parte di Giuliano Ferrara per Matteo Renzi. Mentre si rifanno vivi con un'intervista e con un intervento, una lettera pubblicata da Repubblica, due protagonisti, uno sicuramente della politica e uno che non si capisce bene se lo sarà, vale a dire Gianfranco Fini e Luca Cordero di Montezemolo, dopo il traffico. E allora Gianfranco Fini, il presidente della Camera, viene intervistato dal Messaggero, da Barbara Jerkova, pagina 7, critica l'Italia, purtroppo è innegabile che si sia molto attenuato lo spirito europeista, la crisi economica è stata solo l'ultimo anello di una catena. E poi la critica anche al governo, mi spiace dirlo, ma è pur sempre il governo del mio paese, ma non c'è ombra di dubbio che la credibilità internazionale dell'esecutivo sia molto bassa. E questo dipende in primo luogo dallo scetticismo per le tante promesse fatte da Berlusconi mai mantenute a lungo andare. Questo è un prezzo che si paga. Gianfranco Fini che critica anche l'allarme lanciato da Sacconi sul fronte terrorismo. Se Sacconi non ha elementi concreti, le sue parole sono gravi e spero che nei prossimi giorni spieghi meglio il suo pensiero. Mentre dicevamo, l'altro protagonista, o non si è mai capito se scenderà in campo in maniera decisiva, Luca Cordero di Montezemolo, manda una lettera a Repubblica che viene pubblicata in prima pagina. Subito un governo di salute pubblica, questo è il titolo. Caro direttore, non c'è più un minuto da perdere, sono in gioco i risparmi degli italiani. E poi detta una vera e propria agenda in 5 punti, che sono questi per Montezemolo. Primo, prima di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, la politica e le istituzioni devono mettere mani ai loro stessi costi. Due, sul lavoro, non possiamo chiedere più flessibilità in uscita senza affrontare il problema del precariato permanente e la riforma degli ammortizzatori sociali. Tre, dobbiamo tornare ad essere il paese del lavoro, della produzione. Non possiamo più permetterci di avere un fisco che premia rendite e patrimoni. 4. Bisogna intervenire subito sulle pensioni, abolendo quelle di anzianità, passando a un sistema interamente contributivo. 5. Per esperienza diretta so quanto rapidamente la liberalizzazione di un settore può dare impulso a investimenti e occupazione. Conclude però Montezemolo la sua lettera, pubblicata interamente a pagina 9. Sappiamo però che nessuno dei due schieramenti porterà avanti questa agenda e il Presidente del Consiglio deve rendersi conto che l'unica strada per salvare il Paese passa oggi attraverso un governo di salute pubblica. Se Berlusconi continuerà ad anteporre le proprie ambizioni al bene dell'Italia, se la sua maggioranza lo asseconderà in questa pericolosa scelta, si concluderà nel peggiore dei modi un percorso politico che ha ombre e luci, ma che non merita di affondare nello spirito del dopo di me il diluvio. Così Montezemolo su Repubblica. Mentre ci sono polemiche furiose sull'ultima uscita del magistrato antimafia di Palermo Antonino Ingroia, che è andato al convegno del Partito dei Comunisti Italiani di Diliberto e ha detto: io confesso, non mi sento del tutto imparziale, mi sento partigiano non solo perché è socio onorario dell'AMPI, l'Associazione Partigiani, ma soprattutto perché sono un partigiano della Costituzione. E tra chi difende la Costituzione e chi quotidianamente cerca di violarla, violentarla e stravolgerla, so da che parte stare. Insomma, è un insieme di titoli ovunque. La toga anti-cav fa outing con i compagni, così titola il giornale con il direttore Sallusti che dice: quest'uomo dovrebbe essere subito allontanato dalla magistratura. Il Corriere della Sera riesce anche a raggiungerlo, Antonino Ingroia, e smentisce. Ingroia dice: non mi candido, ma non ci sono elezioni in vista. In ogni caso ricordo che il magistrato, come tutti i cittadini, è titolare dell'elettorato attivo e passivo. Insomma, le polemiche anche per Repubblica. Ingroia, io PM partigiano, il PDL si rivolge al CSM, mentre lo difende il procuratore di Palermo Scarpinato, intervistato da Repubblica. Dice: ha detto una cosa ovvia, sono partigiano della Costituzione. È curioso che faccia scalpore un'affermazione, direi, elementare che gli studenti di giurisprudenza apprendono al primo anno di corso. Vabbè, voglio segnalare a proposito di giustizia. Che cosa? La inchiesta del Sole 24 Ore, la trovate a pagina 5, si concentra sui crimini in Italia. Sono i dati dell'Associazione Nazionale Forze di Polizia. A pagina 5, a Milano e Roma, la maglia nera dei reati. Nel capoluogo lombardo c'è la maggiore concentrazione di reati in Italia, a Milano, mentre Roma, che è al secondo posto, ha comunque un forte incremento, il più 7,8% rispetto al 2009. Soprattutto, attenzione, racconta Rossella Cadeo, aumentano nettamente i furti negli appartamenti, una vera e propria impennata fenomenale. Mentre le tipologie, Milano è terza dopo Lucca e Pavia per la piaga dei furti in casa. Dunque Lucca e Pavia sono al primo e secondo posto, mentre Milano è terza. Milano è anche seconda per quel che riguarda i borseggi. Roma invece spicca nei furti d'auto e negli scippi. Tutti i dati dettagliati comunque li trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore. Io vi ricordo allora che, come titola il quotidiano nazionale Baby 7 miliardi, oggi parleremo di questo, di una terra che è arrivata simbolicamente oggi a quota 7 miliardi, presto arriverà a 10 miliardi. Ci interrogheremo con Oscar Giannino e Giovanni Sartori dalle 8:20 a capire, ma insomma, questo sistema terra potrà reggere questo aumento demografico? Ci sono i catastrofisti che dicono di no. Ci sono gli ottimisti che dicono sì, la tecnologia ci salverà, nuove risorse, nuove capacità di sviluppo più sostenibile, quindi ce la faremo. Ne parleremo più avanti. Intanto concludo con lo sport. Più che il calcio è il dramma che sta vivendo Antonio Cassano, ricoverato, ma pare che non sia grave. Si è ipotizzato da un lieve ictus a una situazione di, insomma, un semisvenimento. Sta di fatto che anche la Gazzetta titola: Cassano, paura Milan, colto da un malore, parlava e vedeva male, ricoverato in neurologia a Milano. Ma le agenzie dicono che non è grave, pare stia meglio. Questo è il titolo d'apertura della Gazzetta. Intanto il giornale radio.